giorni di lavoro e altre cose, non ho sentito più nessuno, so che doveva dare l'esame del nostro caro Natalino, però non so se ci sia stato, se lo deve ancora dare l'esame. Allora, mi sa che sono oggi, domani e dopodomani i giorni dell'esame. E allora sarà in questi giorni, sarà impegnato allora. Se non l'ha dato lo deve dare in questi giorni lo stesso. Capito, ma come lo danno, sempre online oppure devono andare giù? Prima si andava a Cagliari, no, se non sbaglio. Sì, si andava a Cagliari, ma ultimamente lo stavano facendo online, adesso non lo so se questa... stavano facendo adesso lo facciano online oppure devono farlo diversamente, questo non te lo so dire, però so che i penultimi l'hanno fatto online. Penso online ancora queste sessioni, forse le avevano attivate con la questione Covid, capito? Penso che le stiano facendo ancora così, poi in seguito non lo so se le faranno così oppure in presenza come era una volta. Vabbè, ma così è meglio, ti fanno un paio di domande a quanto so io e poi ti lasciano in pace. Infatti in presenza magari c'è la possibilità che ti chiedano molte cose di più, capito? Così invece si limitano a fare quelle due o tre domande, immagino se rispondi bene, no? Non ti tartassano più di tanto. Infatti, ma Gavi non mi sa che è deluso, è in paranoia. Sai cosa gli fa l'apparecchio? Praticamente quando lui preme la portante, li segna a due, poi quando parla li scende a 1-1, capito? Ma stazionarie? Sicuramente qualcosa che ha nell'impianto magari dell'antenna. Con picchi negativi, capito? No, che stavo usando un altro apparecchio e se non lo attacca, capito, Giorgino, come ce l'avevi tu, non succede nulla. Se lo attacca succede questa roba. Qualche spezzone o il collegamento magari sbagliato, ma non credo. Gliel'ho fatto cambiare anch'io lo spezzone, no? Magari fosse in corto, roba del genere, l'ho fatto cambiare e dice che fa la stessa cosa. Ma guarda, per avere la certezza che lo spezzone vada bene basta usare il tester, no? Lo metti in home e tocchi i vari punti, se vedi che sono collegati tocchi il puntale sul centrale e fa contatto col centrale, poi lo metti sulla parte filettata e se anche lì ti dà il segnale vuol dire che allora non va bene, se invece non c'è niente dovrebbe essere a posto, cioè la prova della lampadina praticamente. Io ho fatto una prova del genere perché la macchina mi stava dando problemi di messa in moto, faceva ho detto ma la batteria sta partendo, vabbè ce l'ho più di 4 anni e mezzo là. E niente, ho provato col tester, ho misurato la batteria, era a 13 volt, ho detto allora non è la batteria, e stamattina sono andato a ripartire con la macchina perché dovevo andare in banca, perché praticamente mi è arrivata la carta che praticamente mi hanno cambiato tutto, anche il PIN, tutto quanto mi hanno cambiato, è arrivata la carta e sono andato a ritirarla, non metteva più in moto, e allora sono andato direttamente dal mio meccanico, manco dall'elettrauto, il mio meccanico c'ha il tester e misura col tester, c'ha praticamente rifà tutto, gli dice dove ci sono i problemi, capito? E non so che cos'era, l'amperaggio invece che 40 ampere era sceso a 20 mi pare, no quello era 100 ampere, era sceso a 40. E com'è possibile? Sballata proprio. Sballata, mi ha detto che non c'aveva forza, che i volsi c'erano, ma non c'aveva la forza per far andare, metterla in moto, capito? Di batteria nuova già. Sì, ho messo la batteria buona direttamente, dai. Ho messo una Varta. Sì, quelle sono buone. Io, guarda, qualche anno fa aveva dato problemi la macchina di mia moglie, no? Ho detto, questa è la batteria, era inverno, è freddo, quindi guardo la batteria, la tolgo, mi metto a cercare e mi avevano detto, prova ad andare anche da Bricomen. Vado da Bricomen e c'era identica. identica, stessa marca ed era proprio una Varta. L'ho presa appena appena più grande di amperaggio, era tipo 45, quella che c'era gliel'ho messa da 65, qualcosa del genere. L'ho messa, ma tutto il lavoro fatto da me, l'avevo pagato una fesseria, una settantina di euro. Messa e ancora in macchina e funziona benissimo. A me mi ha fatto pagare 90, non mi ha fatto pagare manco la mano d'opera. Questo è il mio meccanico di fiducia, quindi non mi ha fatto pagare manco mano d'opera. 90 euro e vabbè, adesso almeno sono tranquillo, perché poi ho detto, se torno dall'ospedale non mi mette in moto la macchina, come faccio? È un casino. No, hai fatto bene, no, non hai pagato tanto, perché la tua magari anche grandezza di batteria, quindi il prezzo mi sembra onestissimo. No, è onesto, il mio meccanico è onesto, io faccio tutto da lui, anche quando devo fare la revisione la porto a lui, lui me la porta a revisionare e poi mi telefona e mi dice guarda che la macchina è pronta, scende a prenderla. Ho capito, dai, a trovarne meccanici così. È bravo, non ha una grossa officina, c'ha un'officina con un ponte che ci stanno due macchine, però è bravo lui, fa corsi di aggiornamento, è molto giovane, è aggiornato, capito? Sa il fatto suo, quando ti fa il lavoro ti manda sempre via contento. Meglio così, non ti fa spendere, ti fa spendere il giusto, insomma, se vai al concessionario ti fanno nuovo. No, non ci sono più tornato dal concessionario, una volta che è finita la garanzia Carlo, non ci sono più tornato, mi avevano preso quasi 400 euro per fare il tagliando, l'ho fatto da lui, lo stesso tagliando ho speso 150 euro. Ho capito, sì, io lo stesso, la macchina sinché era in garanzia gliel'ho portata. E poi siccome mi ero registrato con la Dacia, io c'ho una Dacia, no? Quindi mi arrivano le newsletter via mail e mi era arrivato uno sconto quando dovevo fare la cinghia di distribuzione, no? E c'era distribuzione più la pompa, era tutto insieme, no? Il kit che ti cambiano quando fai la distribuzione. E siccome era un prezzo conveniente l'ho portata là al concessionario, me l'hanno cambiata e ho speso 320 euro e mi hanno detto che comunque il prezzo era buono, ma perché era in offerta, però se no poi sto andando anch'io da un altro meccanico. Sì, ma infatti vediamo un po' se Gavino è rientrato. Gavino è in paranoia stasera, Luca. Ciao anche a Carlo. Sto facendo due buche e una vaniglia della porta finestra di Marina che si è rotta. Siccome gli attacchi su originali non reggono più, allora sto facendo due buchi e me li metto il bullone passante. Dai, riprendete, adesso sono qua in ascolto, dai. Ehi, va bene, fai. Gavino? Luca, ciao, fai. Gavino è come me, quando ce la faccio a fare le cose non mollo, Quando mi succedono queste cose mi entra la paranoia, Carlo. Una volta, cavolo, mi è successo che qualche cosa di strano nell'apparecchio, cazzo, pensavo che fosse dall'impianto, invece ho controllato tutti i fili, cambiato spezzone, questo e quell'altro. E poi che cosa era? Che avevo, sono andato in banda laterale, non gli ho fatto fare lo scatto in AM, no? L'ho lasciato tra la M e praticamente e la banda laterale. E non usciva bene, capito, l'apparecchio. E infatti già ti avevo sentito, capito? E poi finché non l'hai rimessa a posto non eri in pace. No, mi viene la paranoia, sinceramente, devo riuscirci. Sono testardo, mi capito? Se scendo dove ci riesco, faccio. Ho capito. Sì, ascolta, è il Galaxy, quel problema che mi avevi detto che la lancetta andava al contrario, non te l'ha più rifatto? No. Sì, diciamo che torna appena indietro sullo zero, però è normale, dai, l'ho chiesto anche ad altra gente che ce l'ha e mi ha detto che fa la stessa cosa. Sì, no, è perché Albino mi aveva detto che era tutto a posto. Io poi la radio, sì, l'ho provata qualche volta qua, un paio di volte l'ho accesa quando l'ho portata a Bonorva, però poi lì ho detto questa radio col freddo, la casa chiusa, si rovina, allora l'ho riportata qua a Sassari e l'ho usata. usata altre due volte e basta da quando è stata aggiustata, capito? Però lui ha fatto un buon lavoro e dentro l'aveva tutta pulita, spolverata, capito? Sì, ma già era a posto, era abbastanza a posto dentro, non so se te l'ha detto che era una radio che non è stata mai toccata prima, vabbè, fino a che avesse quel guasto. Vabbè, no, ma ce l'avevo vinto, da poco fa ce l'avevo accesa, poi abbiamo attaccato tutti il 3009, io, Gavino e Luca, tutti e tre col 3009. Ho capito, quindi eravate tutti con la stessa radio. E la mia, diciamo che questa è piccola ma sincera, nel senso che fa tutto, Questa c'ha AM, FM, banda laterale, capito? E, insomma, poi c'ha i vari step, capito? Poi cambiare hertz, kilo, hertz, fa tutto. Sì, sì, come anche come il Galaxy, dai, che puoi salire 10 kHz. Vabbè, ma poi lo puoi fare anche col clarifer, quello lì. Sì, no, c'è anche il clarifer questa. È piccola ma ha tutto, capito? Diciamo che questa è omologata, ma se fai una piccola operazione di precisione, praticamente diventa per uso diciamo HF, no? E quindi aumenta la potenza e di conseguenza anche tutta la banda amplia. Poi basta premere una sequenza di tasti e se ne ritorna in omologata, capito? Quindi tu potresti ascoltare anche le bande HF facendo l'omolocane. Sì, esatto, è per quello che con questa io ogni tanto già ci vado in banda laterale. Capo, buono. Ma quanto fa? Tu mi hai detto che è tipo una sintonia continua che ha quella radio lì. Lo fai con i tasti, però non lo fai col VFO, però ha tipo una sintonia continua, la confermo. E diciamo di sì, con questa vai col microfono che c'è i due tastini velocemente, però se vuoi andare per dire da 27 vuoi salire a 29, premi step tre volte e ti cambia direttamente, fa 26, 27, 28, 29, mi capisci? Sino a 29 sale o sino a 30? Mi sa che questa sale sino a 30, fa 25 o 24 qualcosa a 30. Aspetta, è proprio completa. E poi hai la possibilità di avere anche sul display solo la frequenza come ce l'ha adesso, 270750, oppure ti puoi mettere anche canali e frequenza, oppure solo canali, capito? Poi insomma puoi selezionare diverse cose, perché le radio moderne hanno tipo una sorta di microprocessore che ti consente di fare tutte queste cosettine in uno spazio ristretto. Sì, sì, ne ho avuto anch'io di quelle radio, però ti dico la verità, mi piacciono più gli altri tipi di radio, quelle più meccaniche, non quelle tecnologiche così che sono, devi andare nel menu, contro menu, sotto menu, non c'ho pazienza con quelle lì. Sì, l'ho avuta io una così, però poi l'ho data subito perché dovevo stare sempre correggendo, bastava che toccassi un tasto per sbaglio e se ne andava fuori, devi stare sempre, allora l'ho presa e l'ho venduta, non mi piaceva più. Vabbè, poi ognuno ha i suoi gusti, naturalmente, che sono radio che fanno tutto, hanno un circuito diverso da questo, per dire, che sto usando io, che è un circuito PLL, però sono belle radio. Sì, e da poco me ne ha mandato una in foto Luca Flipper, dai, per capirci, ed era una Icom IC, mi pare 7706 o 7006, una HF, ma bella. Stava vendendo? Eh sì, però io adesso al momento non, finché non finiscono qua, non credo di cambiare niente, capito? Per adesso tengo così, poi in seguito magari posso anche valutare qualcosa di quel tipo lì, però adesso non ne ho voglia perché mi tocca cambiare, fare, se riesco voglio mettere due antenne, capito? con due discese. Idem, io lo stavo per prendere il 140, qui ci ho ripensato, ho detto tutte queste radio, sta entrando poca gente, vi ho fatto un giro di conti, ho detto lasciamo perdere, poi ho fatto bene anche perché questo mese ho preso l'apparecchio, poi mi è uscita anche questa spesa della macchina, quindi non è che posso straffare. Ci dobbiamo tutti un po' regolare, dai. Io non è che ho speso tantissimo, ma comunque per adesso rimango così, anche perché non è che ho tantissimo tempo da dedicare alla radio, giusto oggi che sono libero e domani lo stesso e magari allora entro, però molte volte rientri la sera che sei stanco tra cenare, cambiarti e una partita, adesso iniziano anche i mondiali, qualche partita me la guardo e quindi diciamo per qualche chiacchierata così già va bene questa. Mi sarebbe piaciuto magari fare un po' di radioascolto su tutte le altre bande, capito? Quindi vorrei mettere un'antenna in grado di ricevere, poi se non trasmette non mi interessa e magari sto pensando più a un ricevitore, capito? Infatti, intanto se tu non hai intenzione di diventare radioamatore, ricevitore, se lo trovi buono, mi Torino ne ha uno bello, buono, lo usa ed è molto bello quello che c'ha. Bisogna buscarlo, se lo ricevitore, vedi, è una cosa bella. E tanto noi siamo SWL, ascoltiamo il buco, non è che entriamo. Per cui qualche cosa la sentiamo, però per regola i ricevitori dovrebbero essere con delle bande che arrivano a un certo punto, poi saltano, quelli omologati intendo, e saltano certe bande e poi ricominciano da capo, ma quelli chi ce li ha? Per quello basta fare una ricerca anche su internet e già penso che si trovi qualcosina di compatto e di buono. Guarda, io ti dico la verità, io ricevevo con l'antenna, con la Mantova 5 tutte le stazioni radioamatoriali sui 40 metri, sui 20, sui 30, ascoltavo tutti da casa, sui 40 metri mi arrivavano 9.30, 9.20, ma arrivavano benissimo e c'era una combricola che si trovava sia la mattina che la sera e li ascoltavo volentieri perché erano persone educate, parlavano del più del meno, sembrava quasi di essere 27. Ho capito, sì, ma tanto noi le nostre quattro chiacchiere già ce le facciamo qua sulla 27, qualche VX quando c'è la propagazione già lo facciamo, capito, e niente, ogni tanto andiamo un po' oltre ma poi già rientriamo sempre qua. Sì, ma io la verità oltre non ci vado, sto sui 40 canali solitamente, d'estate ascolto un po' sul 45, ascolto tutto il balame che c'è e poi se trovo qualcuno che conosco magari lo saluto, ecco, però nei canali alti non è che ci vada, non ci sono mai andato perché ho sempre la paura di sforare, di andare fuori, allora cerco sempre di contenermi nei canali che ho. Ecco, avanti. Ciao Gianni e ciao Carlo, buonasera Massimiliano. Ciao Massimiliano, buonasera anche a te, dai. C'è anche Luca e Gavino da Porto Torres, però Gavino ha dei problemi, quindi non lo so se si sta dedicando a cercare il problema che ha. Va bene, dai, riprendi e poi vedi tu. Ok, saluto a Luca e saluto anche a Gavino. Riprende Carlo, ciao, buonasera, ben ascoltato. Ciao Massimiliano, buonasera. Scommetto che sei rientrato tutto bagnato stasera. No, oggi veramente non ho lavorato proprio per il tempo. Però già stavo facendo qua a casa stamattina, una bella giornata, mi sono imbiancato tutta la cucina, giusto per stare in tema. Aia, e anche quello va fatto, dai. Sì, oggi era una giornata abbastanza decente, dai, almeno non ha piovuto, ma stasera sono uscito, io dovevo fare un po' di compere e sono passato da Bri come poco fa, c'era la fila delle macchine, tutti in macchina, stava diluviando, poi c'era qualcuno che si è tamponato, quindi c'era la polizia, un'ambulanza, e la pioggia che scendeva era una cosa impressionante. Quando piove Sassari si intasa, non lo sai che così. Purtroppo, avanti già. E poi a Predaneta ti dirò ancora peggio, Predaneta diventa un lago. E vabbè, io non sono uscito, cioè sono uscito stamattina per andare in banca, poi sono ritornato a casa, non è che abbia fatto chissà che cosa. Intanto guidare per me adesso è diventato una cosa allucinante, non mi fa male la gamba guidando, devo andarci piano piano. Plups. Io c'ho una motosega buona. Quindi possiamo tagliartela? Certo. Allora lo facciamo, là. Dimmi quando sei disponibile. Ah, ma tagliami la terza gamba. Un bel lunga ce l'ha, ciao Lu. Insomma, 2 centimetri. Quella basta il gattuccio, Luca. No, ma ci vuole la motosega lì. C'è un gattuccio e taglia parecchio, eh. Tanto a Bombolino non lo sentiamo più, eh. Adesso da là se n'è andato. Le ho smontate io le antenne. Abita giù a Tadoce, dove c'era il padre. Tanto che c'è una piazza d'acqua in là, sul tetto. Sì, lo so, me l'ha detto Olu, me l'ha detto che si doveva piazzare l'antenna che prima risolveva tutti i problemi di coso e poi di trasferimento e poi avrebbe visto di mettere l'antenna, si voleva mettere addirittura una game pole. Ma in via Milano mi sa che già ce l'ha sempre l'antenna. Sì, che ce l'ha. Allora da qualche volta lo sentivo anche da lì, già si collega da lì. Kappa. E vabbè, dai, sono contento che si è trasferito. Allora pagare 2 soldi di affitto, dai, questa la pagava 380 euro, un buco, ma un buco, non so se siete andati, ma un buco proprio, una casa così non ci abiterei mai, per carità. No, io l'ho vista da fuori, ma dentro non sono andato. No, io già sono entrato anche dentro, mamma mia. Tu pensa, quando abita a fianco, proprio uno sgabuzzino, cioè sono appartamentini piccolissimi. Infatti c'era questo qua con la porta aperta, non gli abbia avuto in sé, ragazzo, mi diceva in chiwi, va a carità. Sì, con i cornicioni. Poi tutto bene di niente, in chiwi. Cazzo, da quei mangagliosi, mi ha di chi doveva buttare fatto. Che schifo, cazzo. Ma poi qua è più grande, la casa sta meglio, è tutta una tragubba, no, via. Si conferma. Ascolta, ma un info, ma le punte buone per ferro, Massimiliano, c'è una marca da prendere? Cazzo, che ho preso con la valigetta da Brickman, quella del... che cazzo di marca sono quelli qua? Black & Decker, ma per carità. Adesso stavo bucando una maniglia nella porta di Marina. Cazzo, mi si è truccata la muta, mi è entrata la muta nell'udito. Ci sono quelle della Hilt, ci sono quelle della Beta che sono buone, ci sono quelle della Vult, bisogna vedere quanto vuoi spendere anche, capito? E alla fine spendo se la piglia in luce, ma non mi serve i buchi anni però. Vai da carbone, ferramenta a carbone, e lì puoi scegliere. C'è una punta che non si spezzi, capito? Fai il telefono. Cappa, avanti Carlo. E poi fai girare piano piano il trapano, però non metterlo a tutta velocità, sennò anche quello surriscalda e poi si spezza. Piano piano fallo, regola i giri, inizi piano piano e poi già buca. Beh, così che si fa, prima si fa l'invito al buco e poi si aumenta. E intanto quando lo fai girare veloce surriscalda la punta, per quello che si spezza, capito? Invece andando piano piano, man mano il buco aumentando, allora la cosa è diversa. Cappa. Prima si vedeva, sto uscendo col 3009 e con un microfono, diciamo, elaborato, dai. Buona la radio, già. Eia, ho messo una capsula di quelle antiche, chissà di che cavo di microfono era, l'ho trovata in mezzo a tutta la merce che c'ho di ricambi, di cose, l'ho trovata e l'ho cambiata, perché questa qua del DM1000 mi dicevano che era nasina, che cupa, eccetera eccetera, quindi l'ho cambiata. No, no, va bene, va bene, io ho voglia. Questo è il 3009, da. Perché quello, il microfono normale ce l'ho, perché l'ho preso nuovo, non il 3009, però mi fa la voce nasina a me. Magari non so se l'hai aperto di modulazione quella radio, può darsi anche per quello. No, non l'ho toccato, non è mai stata toccata. Questa l'ho comprata nuova, come è arrivata è. Però dentro, se tu lo apri, no? Non c'è da sbagliare, c'è scritto VR14 e c'è scritto mod, quella è la modulazione, quello lì te la apri e vedrai che la musica cambia. Ma non lo voglio toccare, già va bene così. Avanti Carlo. Lascialo così già, già va bene, il microfono è chiaro, io lo lascerei così. Sì, lo pompa un po', dai, lo pompa, quando mi sembra che Marco Condor l'aveva fatto questo lavoro qua, usciva più forte di radio. Già, riapre solo la modulazione, non è che li stai toccando la radio, la modulazione basta. Appa. Andave, Carlo, il Galaxy sta uscendo ancora più forte di come usciva prima, di watt è più pompato. Detto che Albino ha fatto un buon lavoro. Allora, mettendolo al massimo mi dà oltre 15 watt mi dà. Sì, lui infatti mi aveva fatto ordinare i due finali che poi ha cambiato, originali Mitsubishi, tutte e due uguali, identici, li vendono in coppia. Praticamente nel mercato italiano non ne trovi, li trovi da eBay, ma quello non italiano, ma dagli Stati Uniti eccetera, là trovi tutto, ma nel giro di una settimana sono arrivati. Caspita, io invece uno non l'avevo trovato e l'avevo comprato da Fusaro, mi ha detto che era la stessa cosa, invece come ha detto Massimiliano non funzionava. No, tu là ci devi mettere la roba originale, se no non ti funziona mai. Cioè Fusaro basta che venda, ti dice no, prendili, questi già vanno bene, già costano due citi, poi non è che costano tanto, però in effetti non te ne fai niente poi. Sì, ma se per prendere non funzionare cosa dirmi già fa? Vabbè, quello lì è stato l'errore sicuramente, perché avendo quello lì che non era originale, uno dei due, adesso non mi ricordo quale sia di ricezione della trasmissione, non era originale, probabilmente è stato quello che non lo faceva andare. Sì, pensa che a me ne aveva dato di finali Giulio di quella serie lì, però praticamente c'era tra uno e l'altro, ne ho trovato una coppia, una leggera differenza, non andavano bene, se no si potevano usare quelli, però poi alla fine ho detto cosa me li tengo, li ho lasciati ad Albino, ho detto che magari lui li può usare. Sì, avanti. Chi è che sa voi, cosa si deve demoralizzare? No. Sto affogando. Ehi. Buonasera a tutti, ciao Massimo. Sì, non ho capito chi è. Gavino di Porto Torre. Ciao Gavino. Ciao Massimo. E poi è risolto, prova a dirla a Massimiliano se gli ha fatto quel difetto mai a lui. No, ho risolto. Risolto tutto, non più chiedere della radio che non abitava bene, diciamo la parte calda si muove, hanno il barilo qui, te l'aveva detto Gianni di guardare il PL per prima. Vabbè, comunque a me non l'ha mai fatto quel difetto lì, sinceramente. E anche so PL di gatto. Cosa Massimo? Che adesso si è uscito bene, prima c'avevo la modulazione un po' bassa. Sì, perché avevo il microfono quasi a zero. E anche sto usando un 3009. Ma a me mi passaggiamo 5-20, adesso radio buona super 5. Lo so, tra me e Gianni c'è differenza perché lui è più vicino che a te. No, la tua radio è molto più forte di quella di Gianni. Sì? Sì, sì, ma la voce magari è un po' più grossa, la tua, però di radio c'è un po' di differenza, là. Usando un microfono originale, c'è un microfono Midland di un 48, usano, non è un microfono amplificato. Vabbè, magari non so se è stato aperto un pochino di radio, quello tu. No, anche questa qua è originale, questa è originalissima. E anche la voce tante volte dipende anche da quello, mio Massimiliano. Infatti cosa ho detto io, lui c'ha la voce un po' più grossa magari, capito? Comunque sono buone tutte e due, a voglia. Va bene, Calvino, così come l'hai regolato già va bene. Aspetta, avete parlato in tre, cos'è già? Che eravamo tutti col 3009, io, Luca Manicomio e Calvino, tutti e tre col 3009 stasera. Ah, vabbè, io ce l'avevo, me l'ho venduto, io ce l'avevo l'F però, quello col frequenzimetro. È fatto male, Massimiliano, questo è un apparecchio veramente bello, anch'io me l'ho venduto perché me l'aveva venduto Calvino, ma Eugenio, a me me l'aveva fatto ancora con la carta adesiva sopra, nuovo, me lo sono venduto, poi me ne sono pentito e me l'ho ricomprato nuovo. E io vengo la famiglia del Pluto, del Tornado, e guarda Tornado mi alla fine a quello. Sì, ma è un apparecchio che è fatto con concessioni di un'altra era, capito? Se tu lo metti in macchina questo apparecchio, non so se tu l'hai mai provato, non senti manco QRM, niente, se metti un altro apparecchio di adesso si bilano tutti i rumori che vi sono intorno, invece questo qua è bello silenzioso, non prende splatter, è bello come apparecchio. Lo so già, io ti ripeto, ce l'ho avuto quello e ho ancora oggi ho Tornado, il 4005, che è 240 canali, 10 kg, che guarda 3009, preciso identico, solo che quello lì non so cosa sia, questo è un Intec, capito, cosa ti volevo dire, un'altra cosa, ed è di vecchia concezione anche questo, capito? Io quando lo metto qua in stazione a casa, come più non li biglia. Sì, è vero, perché c'è il circuito PLL, va molto bene. Anch'io quando sento, per dire, gente che mi splatte, la prendo, attacco questo qua, non intendo più. Questo 48 in casa, vedi cos'è, mamma mia come sto. Con Royce, per dire, li sento, capito? Invece con questo qua no. No, vabbè, io con questo no. Avanti, Carlo, riprendi. Io di quel genere di radio lì ne ho avuto anche io, però non mi è rimasto più niente. Sono andato su una moderna, è tutto a schede quella che c'ho io, e sono anche molto piccoline, tutte fatte micronizzate, difficili da toccare e da sistemare pure. E che radio è, Carlo? È un Albrecht AE 5008, la versione Europa, è da AM, FM, SSB, però si può fare una piccolissima manovra e ti fa, diciamo, aumentare i watt e ti amplia, diciamo, il range di frequenza, ed è AM, FM ed SSB. Ah sì, già lo conosco, 5008, si va bene, una bella radio, una digitale, no? Sì, esatto, niente a che vedere con le radio che stavate nominando voi, che le conosco perfettamente. Cappa, va bene, questa bene sta andando, sì. Io ho voglia, questa sta andando benissimo. Andava bene allora. Gianni, ci sei ancora? Dai, riprendo io che così vi saluto, che mi devo staccare, là. Vi saluto a tutti con la buona serata e buona continuazione del QSO. Avanti Calvino, riprendi tu e io non riprendo più. Ciao, buona serata. Ciao Massimiliano, grazie. Sto provando a fare una cosa. Grazie Massimiliano, buona serata, a risentirci. Massimiliano, alle prossime, grazie delle quattro chiacchiere, ce la risentiamo. Avanti Gianni, Gianni deve essere che magari ha da fare. Gavi, comunque di segnale qua mi arrivi molto molto forte, se si dà da Porto Torres, più di Eugenio mi arrivi forte. Sono al telefono, scusate. Sì, vabbè, non è che sono proprio a Porto Torres, Porto Torres, io sono in periferia di Porto Torres, diciamo vicino a Sorso. Ho capito, però il segnale è ottimo qua, 9 più 20 mi arrivi. È positivo, anche io sto usando un 3009. È come quello che ha Gianni, sì, è ottime radio quelle, già le conosco. Io l'ho vista anche in macchina Gianni, quella radio collegata, e va molto bene, bell'apparecchio. Sì, vanno bene, vanno bene. L'ho preso oggi. Proprio di zecca oppure d'occasione? No, d'occasione. Allora lo starai collaudando, avrai modo di usarlo in questi giorni allora. Sì, adesso mi sto mettendo, perché ho preso la radio più il microfono, ho capito. Adesso mi devo assemblare le MP4 che sto provando una cosa. Io ce l'ho un MB più 4, però per questa radio non va bene, cioè se lo collego funziona come microfono normale, non prende la preamplificazione. Ah, va, non amplifica. Negativo, perché questa radio praticamente ha di quei microfoni che hanno all'interno quel circuito particolare, quindi hanno 6 pin diversi da quello, quindi bisogna fare un sacco di modifiche, se sbagli appena appena rischi di bruciare la radio, allora non lo tocco, tengo il microfono originale e già va bene così. Sì, infatti, ma conviene non toccare, anche io ho un apparato professionale, non lo tocco, ho il microfono originale. Ho sempre usato questo, il microfono è il suo originale, addirittura c'ho una prolunga che ho trovato sempre ordinata su internet, è sempre originale, è fatta 6 pin, quindi adesso ce l'ho con la prolunga, sono seduto, la radio ce l'ho di fianco, capito, e io sono seduto sul tavolo in cucina perché ho tutto in cucina io. Se metto tutto in cucina mi sbattono fuori di casa. No, e noi già siamo pochi, per cui chi sta da una parte e chi dall'altra, in cucina entriamo solo a mangiare, insomma sentire le notizie, la mattina a colazione, poca roba, poi stiamo sempre, abbiamo il salone più grande che è più comodo e ce ne stiamo là. No, ho capito. Beh, devo fare un attimino un lavoro di precisione. Va bene, Gabi, già ci sentiamo. Comunque se c'è Gianni, adesso riprendo con Gianni, anch'io saluto perché è ora di cena e sono quasi le 8, nel caso ci risentiamo. Fai pure. Ciao Gianni, se ci sei. Io sto chiudendo, ti saluto anche Gavino e niente, Luca, buona serata se ci sei ancora. Eia.